Vissuto come vivo io, poi è morta. Io sono il presente, ma so che anch'io me ne andrò. È triste essere capaci solo di declamare altri poeti. Voglio che qualcuno declami. Again. 1 year in every 10, I manage it. A sort of working miracle, my skin, bright as a Nazi lampshade. My right foot, a paperweight. My face, a featureless fine jewel linen. Peel off the napkin, oh, my enemy. The flesh, the great KVA will be at home on me. And I, a smiling woman, I'm only 30. And like the cat, I have 9 times to die. This is number 3. What a crash to annihilate each decay. What a million films. Come Lazzaro. È una storia così affascinante. Ero morta e sono resuscitata. E mi aggrappo al valore puramente sensoriale del suicidio. Devo essere stata proprio vicino. Uscire dalla tomba con le cicatrici. Con il segno deturpante sulla guancia, che sarà un'impressione. exalta sempre te. Ma come faccio ad andare avanti in silenzio? Senza un'anima qui a contare tutti. Voglio gridare di venire a salvarmi dalla mia insicurezza. Voglio combattere da sola, mentre alle mie spalle c'è sempre il tic-tac che mi ferisce. Una vita sta passando, la mia. Elettroshock, esplosivo, breve descrizione, senza neanche una sfaccettatura di lezioso sentimentalismo. Ieri notte ho pensato a come descrivere l'elettroshock, il sonno mortale della sua paura e la colazione che non arriva, i piccoli dettagli, il flashback. Sull'elettroshock è andato male. Un accenno all'elettroesecuzione e l'inevitabile discesa nei corridoi sotterranei. Incontra un nuovo mondo. Senza nome, a una nuova nascita. E non da una donna. Sposare?